FM presenta Country Skyline. Buonasera, buonasera cari ascoltatori di Rock FM, Maurizio Faurisi. Oggi 12 settembre del 2006, ladies and gentlemen, entriamo, udite udite, nel tredicesimo anno di programmazione di Country Skyline. Come state, come state? Sono passati esattamente due mesi, sì, un mese, perché due? Un mese, era agosto, metà di agosto, sì, eravamo nella metà di agosto. Scusate, ma l'emozione non riesco a contenerla, davvero non riesco a contenerla, nonostante i 13 anni di collaborazione con Rock FM e non vi dico quanti altri, da quanto ho messo piede in uno studio radiofonico. Eppure vai a capire certe cose, vai a capire gli esseri umani, vai a capire certi esseri umani particolarmente come riescono a emozionarsi. Una spiegazione c'è. È assuefazione, è una mancanza che è quasi fisica. Non so, forse potrò sembrarvi esagerato. Io sono stato un gran fumatore fino a un 6-7 anni fa. E così voi, che magari anche voi avete provato questa brutta esperienza, ecco, ricorderete, o magari siete ancora dipendenti della sigaretta, ecco, dopo pranzo, dopo il caffè particolarmente, quando si sente proprio come esigenza fisica quella di accendersi una sigaretta. Ecco, io alle 23, questo mese, alle 23 sentivo come esigenza fisica quella di alzare un cursore e dire buonasera e ben sintonizzati sulle frequenze di Rock FM. Vabbè. Come state? Come è andata l'estate? Questa è Rock FM e questa è Country Skyline. Riprende Country Skyline con Country Skyline tutta la programmazione che va dalle 23 alle 24, da lunedì al venerdì, con Maurizio Faurisi. E al martedì, con replica al venerdì, Country Skyline, che questa sera comincia con... Well, I don't know where I'm going, I don't even care, but come tomorrow morning, you won't find me anywhere. Joe Diffy! On the next thing smoking, this time I'm gone and I ain't joking. Western Delta Continental, Amtrak Greyhound Avis rental. Well, I don't care where I'm bound, just as long as I'm leaving town, I'll be gone. On the next thing smoking, this time I'm gone and I ain't joking. Western Delta Continental, Amtrak Greyhound Davis rental. I don't care where I'm bound, just as long as I'm leaving town, baby, I'm gone. Well, I don't care where I'm bound, just as long as I'm leaving town, I'll be gone. We'll be right back. Next Thing Smoking, Joe Diffie. Joe Diffie dell'altro ieri, poco dopo il debutto discografico. Era il 1992. Regular Joe, uscito dopo A Thousand Winding Roads del 1990, debutto su Epic Records. I due momenti insieme a Third Rock from the Sun del 1994, che rappresentano a tutt'oggi il meglio della produzione discografica di Joe Diffie, ragazzone di Tulsa, Oklahoma, il covo dei western swingers degli anni 30 e 40. Oklahoma, classe 1958, è arrivato ultra trentenne al successo e ancora lì, in alto, nei posti più caldi della classifica. Questo era Joe Diffie. Questa sera il programma è vario. Dal New Country al... Somewhere in Israel, on the top of that famous hill where once stood three rugged crosses, now stand Raggedy Ann, Jack and Jill. Well, Jackie jumps off the mountain, as you know he busts his head. Jill and Ann hold his dying hand, and Jack lifts up and said, "Did his finish? Somebody give me a Danish." Al grande Darrell Scott. Hey, I'm nobody, nobody, that's me. Got my head full of nothing. I'm as wishy-washy as a deep blue sea. And I'm going nowhere, nowhere, that's where I'm going. You're going nowhere too, but you don't have no way of knowing. You're a nobody, nobody, nobody like me. A basketball, she's leaning against a sycamore tree. She's too weak to crawl. She's never gonna drink Pepsi Cola. She's never gonna watch MTV. She'll never feel that fed up feeling like you and me. No, we can do better. We can ride our Congress personality. Hey, I'm nobody, nobody, that's me. Got my head full of nothing. I'm as wishy-washy as a deep blue sea. And I'm going nowhere, nowhere, that's where I'm going. You're going nowhere too, but you don't have no way of knowing. You're a nobody, nobody, nobody like me. Your piece of the pie. Bye bye. Bye bye. Dark. He's gotta find some place to sleep, somewhere in Memorial Park. Well, he's fought on foreign shores, but his hardest fight is here at home. Two kids on a double date yell out of daddy's car with an ice cream cone. Hey, get a job, get a life, get a home loan. Hey, I'm nobody, nobody, that's me. Got my head full of nothing. I'm as wishy-washy as a deep blue sea. And I'm going nowhere, nowhere, that's where I'm going. You're going nowhere too, but you don't have no way of knowing where. Hey, I'm nobody, nobody, that's me. Got my head full of nothing. I'm as wishy-washy as a deep blue sea. Where I'm going, you're going nowhere. just like me. I'm nobody. I'm nobody. I'm nobody. You're nobody. Questo è Darrell Scott, signori miei. Mica uno qualunque. E lo abbiamo pescato da The Invisible Man, un album, il suo ultimo album, uscito neanche troppo tempo fa, comunque in questo 2000-2006. Si diceva che questa sera si ascolta davvero musica molto varia, quindi dal New Country di Nashville. A Nashville ci siamo rimasti, ma abbiamo cambiato davvero registro con questo Darrell Scott, un cantautore, sì, musicista, ottimo musicista, anzi strepitoso musicista. Cantautore che risiede anche a Nashville e che è conosciuto nell'ambito del country e anche bluegrass progressivo, avendo collaborato con alcuni dei Newgrass Revival. Lo abbiamo ascoltato e visto in Italia qualche anno fa. Darrell Scott è un grande musicista, impegnato politicamente. In questo album è presente una canzone intitolata Good Old USA, che è un attraverso la quale denuncia il suo punto di vista relativamente alla attuale politica americana, particolarmente quella estera. E quando si dice questo si intende la guerra. Questo era Darrell Scott, lasciamo Darrell Scott, ma ci prendiamo ad ascoltare qualcosa da un suo amico che si chiama Dana Cooper, che, del quale vi ho fatto ascoltare recentemente, forse probabilmente anzi qualcosa proprio prima di lasciarvi e salutarvi per le vacanze estive a metà di agosto. A proposito, non vi ho ancora informati riguardo i contatti di Rock FM, che sapete sicuramente già ormai a memoria, ma casomai passasse di lì casualmente qualche nuovo ascoltatore, allora si prenda nota del numero di SMS, che è 338-6171-300, in diretta. Quest'oggi è in diretta, Faulisi è tornato. 338-6171-300 è il numero di SMS al quale potete mandare messaggi che saranno letti direttamente dal vivo questa sera dalle 23 alle 24, Country Skyline. Volete mandare messaggi email? Bene, maurizio@radiorockfm.com, e vi do anche il numero telefonico da comporre, da utilizzare soltanto a chiusura della trasmissione, perché non posso rispondervi durante la trasmissione, che è in diretta quest'oggi. Oggi è martedì 12 settembre. 0267 09 132. Ringrazio davvero di cuore tutti quelli che mi hanno scritto, quelli che mi hanno mandato le cartoline, quelli che mi hanno mandato messaggi email, quelli che mi hanno mandato addirittura dischi. Ma davvero, voi ascoltatori siete meravigliosi. Uno alla volta vi incontrerò tutti. Ne ho incontrato uno in Sardegna, dove sono stato in vacanza, ci siamo accordati, lui sardo che vive in Toscana, un saluto all'amico Antlon, e ci siamo incontrati. Una alla volta vi incontrerò tutti quanti, conto di vivere almeno 2727 anni, quindi potrei farcela. Si chiama Dana Cooper, ben sintonizzati sulle frequenze di Rock FM. I was a child, I believed in you. Your vengeful lies, gospel truth. All that eye for an eye, all that tooth for tooth. Bankrupt soul. Pardon me, boys. Che musica questa sera, particolarmente. Che musica! Questo era Dinah Cooper, Made of Mud, già ascoltato sulle frequenze di Rock FM, in particolare durante Country Skyline, che va in onda ogni martedì in diretta dalle 23 alle 24 e in replica il venerdì seguente. La canzone Sit Is One Out dall'album Made of Mud, Dinah Cooper, 2005. E ancora più indietro andiamo a pescarci quello che pare essere ancora oggi l'unico disco prodotto da tal Bob De Levante. Vi dice nulla? Beh sì, in effetti non è molto conosciuto, lui è uno che si diverte a fare musica e mica ci punta sopra più di tanto, no, intanto è che sono diverse le passioni, oltre a quello, diverse le passioni artistiche di Bob De Levante, e evidentemente la musica non è quella principale. Visto che è così restio nell'entrare in sale di incisione, beh, lui si occupa di arti grafiche, si occupa di fotografia e incidesse un pochettino di più. I walked 1,000 miles on a dirt hard road, dark as pitch, don't know which way to go. I walked 1,000 miles on a dirt hard road, yeah, moving is nothing but slow. North, south, east to west, the going is rocky at best. I walked 1,000 miles, got 1,000 more. 1,000 miles to go, Bob De Levante. I walked 1,000 miles on a lonely street, single silent step, echo one heartbeat. I walked 1,000 miles on a lonely street, what I need is someone walking alongside me. The road stretches on through time, all I want is a hand to hold in mine. I walked 1,000 miles, got 1,000 more to go. Along my way I heard a man say, this road will open up on a brand new day. The sun's gonna shine on these weary eyes, sometimes it feels like a million years away. Yeah, I better be on my way. ma è bravo, è davvero bravo ed è davvero un peccato. Sì, davvero un peccato che non entri in studio più spesso. Questo era Bob De Levante. E questi che ho davanti a me sono i messaggi SMS che mi giungono al 338-6171-300 per darmi il benvenuto. Non vedevo l'ora di essere qui, certo al mare si sta bene, ma anche davanti al microfono di Rock FM. Eh sì sì, davvero, un caro saluto a tutti quanti, a tutti quelli che si sono sintonizzati questa sera sperando di trovare il Faulisi e l'hanno trovato. Questa sera riprende la trasmissione Country Skyline e l'attività di Maurizio Faulisi, collaboratore di Rock FM, sotto diversi formati. Sì, sì, si parla di country music e roots music e si ascolta soprattutto country music e roots music il martedì e il venerdì. Il mercoledì, quindi domani sera, tenetevi forti. Il Matthews è pronto per voi e quindi ci ascolteremo tanto garage music e rock and roll dalle 23 alle 24. E poi se amate il rock and roll, e so che lo amate, so che davvero non riuscite a farne a meno, allora il giovedì con replica il lunedì, Good Rocking Tonight, trasmissione completamente dedicata agli anni 40 e 50 e al buon vecchio rockabilly, rock and roll, doo-wop, rhythm and blues, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, i dischi mi sono davvero piaciuti tantissimo. Guarda, casualmente li ho qua. Ma prima di far partire il tuo disco, caro Luca, voglio farvi ascoltare alcune canzoni degli anni 70, quando artisti rock e artisti pop del periodo incidevano i loro dischi e dimostravano quanto fosse importante la componente country nella loro musica. Uno a caso? Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Give my loving on the run. I'm a smoker, I'm a midnight toker. un po' influenzati dal folk, un po' influenzati dal country, inserivano strumenti acustici e comunque profumavano di campagna spesso i dischi di artisti pop e rock degli anni 70. People keep talking about me, baby. Uno dei più grandi rocker di tutti i tempi, ma sì, diciamolo. Questo è, sì, vabbè, che facciamo, lo presentiamo, lo conoscono anche i bambini. È Steve Miller.